basta che tu scrivi sotto fuochi d'artificio e c'è fuochi d'artificio, scrivi stelle e c'è le stelle, poi c'è scritto più a fianco alle stelle, tu premi più e ti dà tutti i tipi di stelle, capito? Sì, già, diciamo che non è semplice come programma. Guarda, se lo vedi è una cazzata, lui, è una cazzata. Sì, ci sono tante cose da sapere, però piano piano le impari, come le impari tu, le impari anche tu. Ah, beh, senza dubbio. Oh, non è facile, perché sono tante le cose da sapere, capito? Ci sono cose che ancora non so, che mi sono nuove, a volte mi dicono qualcosa e mi suona nuova, perché non la so, e imparo, accumulo sempre, alla fine poi vai a sapere tutto, capito? Vabbè, io sto mangiando la pizza di Puttica. Si è passato a prendersi. Facciamo il prosciutto a cotto. Ma io ce l'ho sotto casa, le fa buonissime questo che c'è sotto casa. Basta che ne riordino, mi dice scendi verso le 8 meno un quarto, scendi. Vabbè, questo sotto casa non ne ho. Sì, Puttica le fa buonissime, a me piacciono quelle di Puttica, ma anche sotto casa qua sono buone. Però non le fa, né il venerdì né il sabato, perché c'ha le altre pizze grandi da fare, non le fa quei giorni lì, capito? Però le fa buone, le fa, sono abbastanza saporite. Sì, queste sono buone, oggi le ho trovate buone, buone, non troppo croccanti, giusto, la croccantezza giusta. Ma chi era quella tipa già, quella di Puttica, quella amica tua? Sì. Lo stava cantando lì? Sì, sì. Non va bene, no. Interessante andare d'accordo, no, stai lì a bisticciare. Non ho sentito cosa ha detto. Già del mio ragazzo, subito, ma... Non ho capito. Mi ha detto subito, già del mio ragazzo. Ah, non ho sentito. No, ma io sì, ma... E io, vabbè, io adesso... Sto prendendo molto con calma, molto con calma. Mi sta cercando lui, mi ha telefonato, mi ha... Vabbè, non li voglio più dai occhi, che sennò ho troppe orecchie ci sono. No, proprio non mi dà niente. Già va bene. Quella Silvia, se tu abita vicino a te più o meno. Vabbè. Allora. Ma... capisci a me? Ma capisci a me cosa? Che la sei, rimorchiamo. Ma cosa, no, questo rimorchiamo, no, manca no. È brava a cantare, è brava. Però non come sono le sue, non dà molta confidenza. Vabbè già. Ci sono tante donne così. Canta bene, infatti gli ho mandato fuochi, stelle, in tutto di più. Comunque c'è gente lì che si compra, se li compra le cose, no? I regali. C'è gente che ci spende 1.000-1.500 euro, praticamente ci sono i giochi, no? Quindi stiamo giocando al gioco del mostro pazzo che inizia alle 6, finisce alle 7. Stanno perdendo, sono due famiglie che si stanno sfidando, no? Una famiglia sta perdendo, cosa fa? Alla fine butta tutti i regali, butta tutti i punti che c'ha, capito? Fatti comprati, capito? E vincono loro, capito? E tu che sei sudato tutta la sera per giocare, però non è giusto, non è una cosa reale, dai. Chi ha i soldi riesce a vincere. Sa che con i soldi fa tante cose, qualcuno non ne ha, ma anche lì su TikTok è uguale, ma lì ci spendono lo stesso un sacco di soldi, ma un sacco di soldi. C'è questo tipo, cazzo, che secondo me campa da lì, perché si fa i match ogni giorno e incassa un bel di punti, un bel, quello si farà buoni buoni al giorno, 200-300 euro. Taurus. Cosa, già abbiamo parlato assieme, mi sa. Cosa? Che forse abbiamo parlato assieme, ho detto c'è questo tipo che sta su TikTok e fa tutti i giorni i match, ogni santo giorno, e si fa, secondo me, 200-300 euro al giorno se li fa. Ma quello che è tutto pieno di oro, che sembra un magnaccio. No, si chiama Luis Barra, è romano. No, io sto dicendo un altro. Vabbè, comunque anche su Star Maker ce n'è uno che fa caricare le carte, ti fa gli sconti, carica lui, capito? Ci spende un bel di soldi, però lui guadagna secondo me, perché Star Maker è un po' come un gioco fantasma, capito? Praticamente lì è camuffato dal canto, però sotto sotto c'è il gioco d'azzardo. Vabbè, anche Max su TikTok, uguale. Praticamente ti spiego, uno compra, un leone costa 500 euro, 500-600 euro, lo manda a te e a te te ne rientrano, su 500 euro questa è 3,50, ma si guadagna. Però bisogna trovare la persona che te lo mandi. Io te lo mando, ci sono e te li mando, vabbè, lì funziona che uno può permetterci tu, cazzo, tu ti aiutano a te, poi quando ci sono, tipo lo faccio io, tu devi aiutare a me, tutto quello che guadagni tu lo puoi ricambiare in monete di nuovo, oppure te lo puoi incassare, tramite una PayPal. Io stavo ascoltando su qualche notte, l'ho ascoltati, i carcerati che parlano al telefono su TikTok, si parlano tra di loro, dice io sono quello di Palermo, un altro, però non dicono mai che carcere è, capito? E gli fanno domande tipo che me li dà i telefoni, ma si possono ottenere? No, non si possono ottenere, che me li dà? Voi volete sapere troppo. Mangiato già. Ho mangiato, ho portato il cane presto, qui mi sono sdraiato perché facevo male la gamba, e mi sono sdraiato nel letto e stavo parlando con Tore, se n'è andato da poco, capito? Quando si è entrato tu se ne stava andando, per cui non ho mangiato ancora, ma mangerò qualche cosa così veloce, dai. Non ho voglia di fare nulla stasera, faccio da mangiare a Taiso e poi e lui già mangiare gli ingarri e mangiare in sera. Di Natale non ho saputo niente. No, non ho saputo nulla. E chi mi informa? Chi mi informa? Con quello non si bubu, lascia perdere. Io se fosse stato avanzo magari me l'avrebbe detto, sapendo che io ero quello che l'accompagnava da tutte le parti, eccetera, eccetera, un occhio di riguardo per me l'avrebbe dovuto avere. E sapendo soprattutto che siamo amici da ragazzi. Perché c'era un obitorio, eh? Lo so, ho chiamato un'amica che lavora lì e mi ha detto sì, ce l'abbiamo noi, ma adesso non lo so se c'è ancora, perché lo tengono 2 giorni e poi lo mandano giù al cimitero, non so nemmeno se lo dovessero cremare oppure se dovessero seppellirlo. Praticamente in cella frigo, giusto? Cosa? Praticamente l'obitorio è la cella frigo. L'obitorio sì, però non è l'obitorio, lui è in camera mortuaria adesso. Ancora lì è? Non lo so, io l'ho sentito avanti a Paola e mi ha detto ce l'abbiamo noi già, non c'è problema. Se vuoi venire, se devi venire, vieni perché ce l'abbiamo noi. Non so dare informazioni come ti comanda Concetta. Lo dici, ma non si può fare affidamento perché se lo vede la pacca di dai. Allora non si informa il marito dove è, dove non è, non sapeva manco dove è. Ma infatti quello che dico io, non sapeva proprio dove è. Io sono andato, il mio dovere l'ho fatto, le preghiere le sto facendo lo stesso, cosa devo fare? Purtroppo è andata così. Sì, l'obitorio c'era dentro la cella frigo. Ma sicuramente gli hanno fatto l'autopsia, poi l'hanno chiuso e l'hanno portato in camera mortuaria, capito? Se faranno l'autopsia. Ma che autopsia fa cosa? Qua non ne voglio parlare, dai. Ma allora va, su WhatsApp. No, non lo sanno di che cosa è morto, se l'hanno ammazzato, se si è ammazzato lui, capito, non lo sanno. Ci sono tanti che camuffano, fanno credere una cosa e poi un'altra, e quindi loro si prendono al sicuro. Beh, è giusto che sia così, se devono prendere il sicuro. Ovvio. Oh, via. Cazzino. Ma, vabbè, purtroppo, adesso non c'è più, ci stanno ascoltando. Oggi quello l'ho cantato Alleluia e ho pensato a lui, lo sai. Come già? Che ho cantato Alleluia oggi, ho pensato a lui. Mi aspettavo potevo aspettare addirittura di più, ma non che facesse gesta del genere. Lì mi ha detto la testa delle persone, lo sai, cosa macina. Puoi mettere Alleluia. Cosa? Ma se ti tocca a Baia? No. E faccio il tarrato. vabbè, purtroppo. Che non mi va. Purtroppo è così. La decisione è stata assurda. Sicuramente si è preso questa decisione perché non ce la faceva più dei dolori. Già. Non so che dolori siano. Qui ti posso dire un mal di testa, un mal di denti. Cazzo, un mal di schiena. Non lo so, se non lo sai, chi non l'ha provato? So che, vabbè, cazzo non è niente, c'è chi non l'ha provato, sono così freddo. Ma comunque, sta banata così, adesso non c'è più. Allora io ho provato i dolori alla gamba prima di operarmi, non dormivo né giorno né notte, per un milione di esaurimento con lui. Praticamente ti vengono dei dolori che sembra che ti diano dei morsi furti in caso da crepare. Da crepare, non riesci a resistere, se mi mettevo a gridare io, fatti un conto. Mi alzavo di notte, mi niente, in caso ma c'era una cosa che... E io li sopporto i dolori, eppure erano fortissimi, erano dolori sopportabili, proprio, capito? Prendevo l'antidolorifico, le prime volte mi ha fatto bene, le altre volte poi cominciavo ad abituarti al farmaco e non ti va di abbia effetto. E a me mi hanno fatto aspettare lo stesso, avevo fatto anche il pre-ricovero, tutto quanto, mi hanno messo in riserva ed ero stato il primo a fare tutti gli esami, quindi a me mi aspettava per primo essere chiamato. No, non ha funzionato così, ha detto che non tu ne hai deciso la loro, a me mi hanno messo in riserva e ne ho preso un altro. Schianto fra auto e moto, l'automobilista fugge ma perde la targa, grazie la biglia buona. Cazzo, ma pure lo fa fuggire adesso, con tutte le telecamere che ci sono, a parte che uno, se ha un po' di testa non le fa queste cose, però tanto con tutte le telecamere che ci sono li beccano, normale, è normale, non devi fare certe cose, dipende dalla responsabilità, può succedere a tutti, però quando succedono queste cose ti devi fermare, chiamare i soccorsi e tutto quanto, non puoi fare una cosa del genere. Uno perché la persona che tu hai preso con la macchina può anche morire di salvate, si può salvare magari se come un ragazzo su una budibudi che praticamente doveva tornare a casa, il padre l'ha telefonato, non rispondeva, cosa, era morto, si è fatto tutta la strada a casa della ragazza, sino a casa loro che abitava le campagne, ha passato la budibudi e l'ha acciappato nel dirupo mosso. Casino, cazzo, casino. A proposito del casino, mi devo attivare la sveglia alle 5 e mezza domani. Ma mi piace questo lavoro, sì. Sveglia, se mi devo dormire adesso, 9 ore. Ma io prendo la sono attorno alle 10 e mezza, 11. Ma non una biugana, sono sincero. Però se vuoi davvero te ne devi bizzarro. Ma tu cosa fai? Sono il pane furti. Ho il gusto pure. Ah, i gusti. Capito. Lo pesi, lo busti, metti l'etichetta e tutto quanto, li metti il nastrino colorato, che colore ce l'ha messo il nastro? Nastro per chiudere le buste del pane? Eia. blu. Perché? Perché ogni panetteria c'ha il suo nastro, perché quando io alla fine della giornata in negozio ritiravo il pane, praticamente ogni panetteria aveva il suo nastro, dovevi mettere nelle ceste e poi consegnarli il giorno dopo, perché se li ritirano, capito? Fare il pane grattugiato. Ah, sì, sì, lo so. Dici il reso. Esatto. Io entri lì, fa, io fa il pane grattugiato. Allora c'ho, aspetta, all'inizio c'ho un bar e un alimentare, poi di nuovo un altro bar. Allora aspetta, mi fai pensare bene. Allora, un bar e un alimentare. Quindi alla fine di Via Umberto, su a tutti. Poi ho un altro bar e una frutta e verdura che vende anche pane. Poi ho un altro bar, faccio il giro in Via Leado, salgo in Via Cottoni e ho un negozietto. Poi da lì vado in Via Lunesole, un altro bar, faccio di nuovo il giro e me ne salgo a Osilo. E a Osilo ho un supermercato grande e poi ho due piccoli negozi e me ne rientro. Vado alla Kuwait, lì in Via Carlo Felice, lascio il pane, poi me ne rientro alla base, scarico le ceste, il pane è avanzato, e poi mi faccio una parinoteca lì vicino, vado un attimino a piedi, mi porto il vostro pane, e poi me ne vado a mettere molto e me ne vado a casa. Non sono tantissime, dai, cose, non è da scendere in testa, te li invidi già le consegne da fare. No, già, ma mi piace la verità, perché non mi rompo le balle. Che si vede la buccia, aspetta. Luciano, ti chiamo. E poi lo sai cos'è, che praticamente una volta ricevuto di la mano diventa un gioco da ragazzo. E all'inizio non era facile, conosce la via, poi vai oggi, vai domani. Infatti gli ho detto, ma sarà sempre di andare oggi da solo, fatto vado da solo oggi. Però c'è da dire questo, che il sabato, si sa che il sabato si lavora di più, invece no. Io il sabato i bar non ce li ho, non ho un bar. Praticamente allora uno, ho un negozio, poi la frutta e verdura, due, tre, sei negozio. E poi me ne rientro. Il sabato noi avevamo le ordinazioni doppie e triple, dipende, anche tre volte ordinavamo il pane. Aspetta già che mi devo telefonare, cosa vuoi, casi? Vabbè, là. Tu dai, ti lascio che vado a mangiare, dai, ci sentiamo. Ciao, se vuoi entrare dopo magari già entro io. Ok, dai, già, a 10 lo lascio. Cosa? No. Però non cantiamo, parliamo e basta, capito? A quell'ora lì. Vabbè, se no vabbè, ci sentiamo qua, dai, non c'è problema, è che devo salutare, poi magari posso entrare. Ehi, già, sentiamo dopo, sono al telefono. Sì, ciao.